la rivincita delle bionde, oltre la cultura dello stereotipo. E buongiorno a tutti e a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Benvenuti ad una nuovissima puntata della Rivincita delle Bionde. Ai nostri microfoni, come sempre, Carlotta Clarese, che sono io, ed Erika Verdecchia. Buongiorno Erika. Buongiorno Carlotta, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ma ci sono tipo 30 gradi a Bologna finalmente, oggi. Finalmente c'è caldo, stiamo sudando per la gioia di tutti. Finalmente soprattutto non mi posso delle nostre più lamentare del brutto tempo. Davvero non puoi più rimpiangere il calore palermitano, soltanto quello delle persone. No, va bene, ma a parte gli scherzi, oggi è una puntata molto fashion. Abbiamo proprio un dress code meraviglioso. Sì, ci siamo create un outfit, devo dire, molto innovativo. Abbiamo tutti vestiti messi alla rovescia, al contrario. Ma in realtà è una cosa importante. Esatto, in realtà non è che ci siamo vestiti al buio, come si suol dire questa mattina, bensì abbiamo deciso di collaborare con un'iniziativa che si chiama Fashion Revolution Week, della quale parleremo. Esatto, non spoilerare, tra poco. Basta, facciamo adesso un breve stacco musicale. Va bene. E ci risentiamo fra pochissimo. A fra poco. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say, my love, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle, toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I jump up. Sleep, my love, love, love. She bruises calls, she's blood as pistol shows. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle and toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I jump up. Down with soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene. My love, my love, love, love. Please don't go. I love you so, my lovely. Please don't go, I love you so, I love you so. Please break my heart. E rieccoci, rieccoci sulla Rivincita delle Bionde, una nuova esplosiva puntata con Erika Verdecchi e Carlotta Calarese. Vi ricordiamo che potete contattarci direttamente tramite SMS o WhatsApp al numero 333-180-9494. Scriveteci e seguiteci anche sulle pagine social. Sì, e tra l'altro siamo già arrivati allo speciale di aprile. In realtà questa non è una normalissima puntata, ma è il super speciale. Comunque l'ho detto molto con l'intonazione palermitana. sì, e tra l'altro ricordo anche che potete contattarci sulle pagine Facebook per raccontare la vostra rivincita o qualche storia che volete che di cui parlare appunto in puntata. Quindi mi raccomando, scriveteci, non imbarazzatevi, non avete timore. Comunque adesso torniamo invece al protagonista o ai protagonisti di questo meraviglioso speciale. Il protagonista di oggi è la Fashion Revolution. Purtroppo questo movimento bellissimo nasce però da una tragedia, ovvero il 24 aprile del 2013 1133 persone sono morte e molte altre sono state ferite quando appunto il complesso produttivo di moda, il palazzo di moda di Rana Plaza a Dhaka in Bangladesh, è crollato. Però, come abbiamo già detto, dalla tragedia è nata una bellissima iniziativa, un movimento davvero rivoluzionario, ovvero la Fashion Revolution. Esatto, la Fashion Revolution è un movimento che crede in un'industria della moda che sia rispettosa delle persone, quindi dei lavoratori, dell'ambiente lavorativo, ma anche dell'ambiente, quindi del nostro ecosistema terra, alla creatività e al profitto in uguale misura. Quindi il profitto non deve essere maggiore rispetto al rispetto dei diritti e al rispetto dell'ambiente. Insieme useremo il potere dell'industria e della moda per catalizzare il cambiamento e ridare dignità alla catena di produzione. Questo è un po' il loro slogan. Esattamente, tra l'altro ricordo che e penso anche che sia tuo pensiero, Erika, che la moda ormai per fortuna è una forza molto importante, cioè non è un movimento da sottovalutare, anche perché tramite la moda si può anche trasmettere, si possono anzi trasmettere determinati messaggi e anche disagi, cioè molti movimenti sono nati proprio dal cambiamento del vestiario, dell'outfit, quindi questo è abbastanza importante. Tu, se non sbaglio, Erika, hai contattato qualcuno che rappresenta questo movimento? Esattamente, ho contattato Marina Spadafora, che è la coordinatrice del Fashion Revolution Day in Italia, perciò direi di andare direttamente ad ascoltare le sue parole. Sono in collegamento con Marina Spadafora, che ci parlerà di moda sostenibile e della Fashion Week Revolution. Buongiorno Marina. Buongiorno. Innanzitutto, cosa si intende per moda sostenibile? La moda sostenibile è una moda che rispetta la gente e rispetta l'ambiente. Cosa vuol dire? Una moda che paga il giusto per i lavoratori tessili nel mondo e allo stesso tempo nel processo di produzione non inquina l'ambiente. Come si è avvicinata alla moda sostenibile e qual è stato il suo percorso, la sua esperienza? Mi sono avvicinata una decina di anni fa, dopo un grande desiderio di poter dare un contributo positivo a questa industria e anche al modo in cui appunto l'abbigliamento viene fatto e l'impatto che ha sull'ambiente. E la mia prima esperienza è stata facendo una linea di abbigliamento in Africa, a filiera interamente africana, si chiamava ai tempi Banuk, che voleva dire Beautiful African Natural Unique Quality, e abbiamo fatto questa linea con materiali organici che abbiamo trovato in Egitto, in questo produttore che si chiama Sekem, che produce in maniera biodinamica, quindi seguendo le regole di Rudolf Steiner, e questa collezione è stata il mio battesimo con il mondo della moda etica. Ma precedentemente ha avuto altre esperienze con il mondo del fashion e della moda? Io sono nel mondo del fashion da tanto tempo, dai primi anni 80. Io ho fatto molta esperienza, ho iniziato lavorando nel mondo del cinema a Los Angeles come costumista, dopodiché ho lanciato una piccola collezione col mio nome, quella collezione poi è cresciuta, ho fatto le passerelle di Milano tutti gli anni 90, due volte all'anno con il mio brand, e poi dall'inizio degli anni 2000 ho collaborato con i brand del lusso come Ferragamo, Prada, Miu Miu e altri. Love you. fantasy. Oh no, no. She got a man in a sundae. When that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy hitting, and in no time. I bet I make this with him, mine. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. So tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to come me. On. You looking, I never say a word. I know how thought I can trip and I heard about the girls. There's no way, hey, no, they can't fight over no day, hey, as you can see. But I like your steeze, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two-seater. Now that's gangsta, and I got special ways to thank you. Don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said, you don't know what you mean to me. Come on. Invece la Fashion Week Revolution? Allora, la Fashion Revolution Week, Fashion Revolution è un movimento che oggi esiste in 100 paesi nel mondo, un movimento che fa una domanda molto semplice, la domanda è: sai chi ha fatto i tuoi vestiti? Quindi il nostro hashtag è Who Made My Clothes? Praticamente noi vogliamo creare una massa critica di consumatori che chiedono ai loro marchi preferiti di essere più trasparenti e di farci sapere appunto dove sono fatti i vestiti, se i lavoratori sono stati pagati il giusto. Diciamo, questo movimento ha uno strumento molto interessante che si chiama l'indice di trasparenza, quindi The Transparency Index, al quale il primo anno hanno aderito 5 marchi di moda e oggi siamo a molti di più. Cos'è questo Transparency Index? È un documento dove noi facciamo delle domande molto precise ai brand, chiedendo appunto dove sono prodotti i vestiti, se sanno che le fabbriche dove sono prodotti, come trattano i lavoratori, domande su come queste fabbriche smaltiscono i loro residui tossici, eccetera, eccetera. E questo è uno dei tanti strumenti che il consumatore può utilizzare prima di decidere cosa comprare. Ci sono anche tanti siti online che ti possono dare questo tipo di informazioni, quindi la nostra speranza è quella che andando avanti i consumatori siano sempre più coscienti e consapevoli che ogni euro che noi spendiamo determina il mondo che vogliamo. Ed eccoci tornati per lo speciale della rivincita delle bionde. Dopo appunto le due parti dell'intervista che sono state intermezzate dalla canzone, una vecchissima canzone, mi ricorda tantissimo la mia adolescenza, Dilemma di Kelly Rowland con Nelly, adesso torniamo a parlare appunto della Fashion Revolution. La Fashion Revolution vuole essere uno strumento di sensibilizzazione, cioè vuole essere il primo passo per far prendere al pubblico, alle persone, coscienza di ciò che significa acquistare un capo di abbigliamento. E non soltanto acquistare un capo d'abbigliamento, ma soprattutto chiedersi chi è che ha prodotto quei determinati vestiti, quindi avere il rispetto ancora di più per le persone e per l'ambiente, perché sai, quando non sappiamo chi sono le persone che fanno i nostri vestiti è molto più facile far finta di non vedere, quindi come vengono sfruttate le persone, come stanno soffrendo e alcune persino morendo. Quindi è importantissimo intanto porsi questa domanda, cioè chi è che ha fatto i nostri vestiti, chi è che li fa. Quindi tramite questo strumento di sensibilizzazione possiamo venire a conoscenza appunto dei produttori, dei sarti, delle sarte, di tutte quelle persone che stanno dietro il mondo della moda, e avere più rispetto nei loro confronti. Assolutamente, e per fare ciò la Fashion Revolution ha lanciato una campagna mediatica che si terrà durante la Fashion Revolution Week, che è iniziata oggi, quindi lunedì 23 aprile, che terminerà il 29 aprile. In che cosa consiste questa campagna, alla quale tra l'altro anche noi due abbiamo aderito? Infatti per quello ci siamo fotografate con le nostre t-shirt al contrario, mostrando l'etichetta. Infatti questa campagna consiste proprio nell'indossare un indumento al contrario, scattarsi un selfie e postarlo sui propri social ponendo l'hashtag Who Made My Clothes, ovvero chi ha fatto i miei vestiti, per ribadire tutto quello che ha appena detto Carlotta. Ma della Fashion Week Revolution, anzi della Fashion Revolution Week, l'ho detto al contrario, ho rovesciato anche lo slogan, ce ne ha parlato anche Marina, perciò andiamo ad ascoltare le sue parole. A tra poco. Potrebbe darci dei consigli pratici proprio per noi consumatori, per diventare sempre più coscienti, anche per sapere dove ad esempio trovare dei capi d'abbigliamento sostenibili? Certo, allora come dicevo, i ragazzi oggi, i millennials, anche la generazione Z, siete, perché sento dalla tua voce che sei molto giovane. Sì, sì, sì. Esatto, siete dei digitali nativi, no? Quindi certo. Siete sempre su internet. Allora, è veramente molto molto semplice, basta digitare abbigliamento sostenibile, moda etica sul vostro motore di ricerca e escono tantissimi tantissimi siti che vi danno delle indicazioni. Allora, si può sia comprare online da queste tanti brand, anche brand di ragazzi giovani che stanno uscendo con anche delle soluzioni molto innovative, perché una delle cose interessanti è che, andando avanti, l'innovation, tra virgolette, può essere la chiave per risolvere molti problemi. Quindi adesso, per esempio, noi faremo un evento molto interessante per Fashion Revolution in partnership con la Fondazione Pistoletto, che è la fondazione dell'artista Michelangelo Pistoletto, che si occupa anche lui di sostenibilità da tanti anni, e ospiteremo delle realtà di giovani che ad esempio creano la pelle dai residui del vino, oppure dai residui della frutta, dai residui delle mele. Poi c'è un brand molto bello che tinge le magliette con la grafite e quindi senza l'utilizzo di acqua. E io credo che essere coscienti e cercare queste, tra virgolette, chicche è importante. Poi ci sono chiaramente dei brand storici anche in Italia. Io mi sono occupata ad esempio della linea di Altromercato per 10 anni, Autor du Monde, che fa tutto seguendo le regole del World Fair Trade Organization, che è un'organizzazione mondiale che assicura che i produttori con cui tu vai a lavorare in questi paesi lontani rispettano le 10 regole del commercio equo e sostenibile, quindi non utilizzare i bambini, non discriminare, non inquinare, eccetera, eccetera. E poi regole anche più facili possono essere quelle di comprare locale. Quindi cosa vuol dire? Ci sono tante occasioni, ci sono tanti mercatini adesso che vengono fatti, dove giovani brand, giovani ragazzi, giovani designer riescono a esporre le proprie creazioni, i propri abiti, e in questo modo si sostengono appunto giovani brand che si autoproducono, si autofinanziano e vendono sia attraverso il web che attraverso appunto questi incontri, e si trovano delle cose deliziose. Un'altra cosa, noi come Fashion Revolution promuoviamo una giornata durante questa settimana, e l'hashtag dice Loved Clothes Last, che vuol dire gli abiti amati durano nel tempo. E questo significa che non buttare via quello che non ti piace più, che si è rotto, ripara, cura, tieni. Chiaramente l'importante è comprare sempre qualcosa che sia di valore, di qualità. Magari ti costa un po' di più, ma invece di comprare 10 magliette a 10 euro tieni da parte i soldi e compratene una veramente bella, che ha un significato per te e che magari passerai ai tuoi figli un giorno. Sì, gli abiti second hand, cioè il vintage, è una maniera assolutamente sostenibile di farsi un guardaroba divertente e interessante. My lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road. I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. From those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. My time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom heart. It's a beating, it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between, it's all in that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's all in that I feel it. Bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. E rieccoci, 333-1809494 è il numero a cui potete inviarci sms o scriverci tramite WhatsApp. Sì, tra l'altro potete seguire, ricordo, le nostre pagine social, quindi Facebook ma anche Instagram. Quindi per favore seguiteci, perché abbiamo bisogno anche del vostro supporto. Assolutamente. A proposito di supporto, supportate anche la Fashion Week Revolution, l'ho detto di nuovo al contrario, mi piace dirlo così, alto e rivoluziono tutto, e la campagna Who Made My Clothes, perché lo stanno facendo anche numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, ad esempio Bernardo Bertolucci, Elio Fiorucci, Saturnino Celani, Domiziana Giordano. Perciò siate anche voi modelli per un giorno di questa moda sostenibile. Sì, sosteniamola per favore. Adesso invece ascoltiamo di nuovo le parole di Marina per capire quali sono i loro progetti futuri. Ha qualche progetto futuro? Sì, ci sono molti progetti molto interessanti, tra cui una bella mostra che ci sarà nel 2019 a Firenze sulla moda sostenibile, di cui sono curatrice insieme a Sara Maino di Vogue Italia. Sono in contatto con tante realtà, alcune anche un'enorme azienda di cosmetici in realtà naturali in Brasile, che si chiama Natura, che è interessatissima a tutto quello che è la sostenibilità anche nel tessile. Quindi tante belle cose all'orizzonte. E per restare sempre aggiornati possiamo consultare la pagina web della Fashion Revolution Week, oppure ci sono altri canali? Sì, online dovete cercare o Fashion Revolution Italia oppure addirittura fashionrevolution.org. E chiedo a tutti quelli che ci stanno ascoltando questa settimana, se avete voglia e tempo, di farvi una selfie mettendo il capo di abbigliamento che state indossando al rovescio con l'etichetta davanti e tenere un cartello in mano che dice Who Made My Clothes e poi postarlo e mettere l'hashtag appunto Who Made My Clothes. Questo vuol dire che voi chiedete al brand che ha fatto la vostra maglietta, la vostra camicia, quello che avete indosso, chiedete a questo brand di essere più trasparente, di raccontarvi come l'hanno fatto, chi l'ha fatto e se in questo processo sono state seguite le regole di un'industria più etica e più equa. Tra l'altro so che a Bologna anche è previsto un evento in questa settimana, sì, un incontro sempre con dei designer, quindi penso che parteciperò molto volentieri. Esatto, ci sono questa settimana ci sono incontri e eventi in tutta Italia. Veramente il movimento sta crescendo in maniera esponenziale. Siamo molto molto contenti, molto felici di questo. Marina, io la ringrazio moltissimo per la sua disponibilità per questa intervista. Grazie a voi. Ed eccoci di nuovo qui sulle note di Time to Pretend, che significa appunto è tempo di fingere. Purtroppo rappresenta proprio la nostra società di questi anni, ovvero la società in cui l'apparenza è la cosa più importante, ma noi vogliamo andare contro questa apparenza e vogliamo invece sostenere la fashion revolution contro appunto la fast fashion, no? La moda di H&M, Zara, Pull&Bear, dove l'importante non è avere rispetto per le persone, per i lavoratori e per l'ambiente, ma è soltanto fare soldi, purtroppo. Invece esatto. Noi sosteniamo la Fashion Revolution proprio perché si tratta di un movimento più etico e sostenibile per l'industria appunto della moda, perché ricordiamo che la moda è sempre stata una cosa molto importante, uno strumento per trasmettere messaggi, e quindi cerchiamo di sostenerla sempre di più, e abbiamo deciso proprio di portarla in puntata per il nostro meraviglioso speciale di aprile, proprio perché la moda ha una sua rivincita, sta avendo una sua rivincita. Assolutamente, e con queste splendide parole di Carlotta siamo arrivati molto saggia oggi. Esatto, molto zen. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata speciale, ma vi diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana, sempre di lunedì, sempre alle 13, sempre sui 103.1 FM di Radio Città Fucico. E ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine social. Una buona giornata a tutti. Ci sentiamo presto. Ciao!